Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci a bordo di Ferry Boat, puntata dedicata alle piccole e medie imprese con alcuni ospiti a bordo d'eccezione. Piccole e medie imprese, colonna portante del sistema Italia, d'accordo, ma se la dorsale finanziaria non è sorretta a dovere, si piegherà fino a spezzarsi. Arrivano gli indicatori di sostenibilità per le PMI, firmate Gruppo CSR Confindustria e LUISS di Roma, con tanto di autovalutazione. Il cloud computing le salverà? L'abbattimento dei costi per le piccole e medie imprese non è poca roba rispetto ai rischi che si corrono? Risponde Microsoft. Ad accompagnarci in questo breve viaggio con le piccole e medie imprese, Pietro Guindani, buongiorno Presidente. Buongiorno. Qui nella veste di coordinatore del gruppo di lavoro sulla CSR, la responsabilità sociale dell'impresa, della Commissione di Confindustria, e poi lei incidentalmente, diciamo così, anche Presidente di Vodafone, quindi ha il suo bel da fare, Presidente. Salve. Sì, buongiorno a lei, grazie. Noi oggi vogliamo affrontare il tema della piccola e media impresa, Presidente, da alcuni punti di vista. L'abbiamo sentito dal sommario, quello finanziario, ne parleremo fra pochissimo col Presidente della piccola e media, Vincenzo Boccia. Poi con lei affrontiamo il tema degli indicatori di sostenibilità, perché il ruolo del PMI è un ruolo fondamentale in un paese come il nostro, e voi vi state correttamente occupando a fondo del tema della declinazione della responsabilità sociale da parte delle piccole e medie. Fino a pochi anni fa era, come dire, tabù questo rapporto. Fino a pochi anni fa, diciamo che la responsabilità sociale era una disciplina soprattutto sviluppata dalle grandi imprese. Non che le piccole imprese non siano sensibili, però responsabilità sociale vuol dire anche metodologie. E noi oggi in Confindustria siamo convinti che i tempi siano maturi per diffondere queste metodologie, già collaudate nelle grandi imprese, anche in quelle di piccole e medie dimensioni. Questo vuol dire che l'attenzione di tutta Confindustria, non solo della Commissione e non solo, come vedremo fra poco, da parte dell'associazione PMI, è tesa verso un sostegno anche alle piccole e medie imprese, che devono capirlo che la CSR è alla loro portata, anzi è, come dire, funzionale allo sviluppo e all'innovazione. Sì, glielo confermo, la convinzione è diffusa, si tratta ora di passare dal dire al fare, le idee sono chiare e questo è il momento di diventare operativi. Per diventare operativi, giusto appunto, come dice il Presidente Guindani, uno dei problemi di fondo, se non il problema di fondo, è il rapporto con le banche, l'aspetto finanziario, che è certamente uno dei sintomi più dolorosi di questa crisi. Vincenzo Boccia, Presidente, neopresidente, possiamo ancora dirlo, sono pochi mesi, della piccola e media industria di Confindustria con noi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei. Vincenzo Boccia si sta occupando molto del tema della finanza proprio con l'associazione bancaria, è così? Sì, stiamo cercando di realizzare con l'ABI un vademecum della comunicazione finanziaria, perché fatto pari a 100 la valutazione dei cosiddetti rating dell'impresa, normalmente il 20 riguarda la parte qualitativa. La nostra idea è, da un lato, le imprese devono imparare a comunicare ed essere sempre più chiaramente nella linea della trasparenza, e dall'altro le banche dovrebbero elevare la valutazione della parte qualitativa, che a nostro avviso è la parte che riguarda il futuro dell'impresa, cioè la parte di visione e quella meno di constatazione. Con una logica, potrei dire, che è quella di elevare il confronto interno con ABI e smussare i livelli di conflitto che non servono a nessuna delle parti. Un accordo di sistema fra piccole e medie imprese e ABI potrebbe essere in effetti la soluzione, perché è tutto il sistema bancario che rappresenta ABI e tutto il mondo delle piccole imprese che tu rappresenti, Presidente. Sì, è una delle dimensioni della soluzione, perché noi diciamo che il futuro del Paese... E nel Paese avremo, diciamo, una grande, come dire, questione tra imprese forti e imprese deboli. E l'interesse del Paese, delle banche e delle imprese è realizzare le condizioni per imprese forti. Le banche vogliono, come dire, capire se esistono queste condizioni per le imprese forti e quindi finanziarle, e noi abbiamo tutto l'interesse che questo percorso si realizzi insieme alla banca, perché una banca che ha imprese forti e clienti forti evidentemente, come dire, ha meno criticità. Quindi questo dialogo parte da una voglia che va verso una direzione comune. Ecco, il punto, diciamo, in cui torniamo un attimo indietro e ci riagganciamo al presidente Guindani è questo: non sembri un salto triplo, insomma, ma più forte le imprese vuol dire anche più responsabili. Questo è quello che pensiamo noi. Presidente, lei è d'accordo, evidentemente. Sì, io sono d'accordo, perché noi siamo convinti che la responsabilità sociale di impresa si possa declinare in un'espressione anche più semplice, ovvero fare bene il proprio mestiere. Fare bene il proprio mestiere sotto tutti i profili, quello economico, patrimoniale, che interessa all'imprenditore e ai finanziatori, ma fare bene il proprio mestiere anche sotto gli altri profili che hanno rilevanza sociale. E noi pensiamo che oggi il successo anche commerciale di un'impresa dipenda dal rapporto con la società. Il cliente lo chiede, questa aspettativa è molto forte. Il successo delle imprese un domani sarà dettato anche dalle scelte dei consumatori, che premieranno le imprese responsabili. Presidente Boccia, è evidente che anche questo è un altro dei suoi percorsi, l'abbiamo letto, sappiamo che così è. Ma noi lo condividiamo totalmente, tra l'altro stiamo lavorando con il gruppo di lavoro della responsabilità sociale della Commissione Cultura di Confindustria, perché partiamo da una consapevolezza, è quella di voler mettere la cultura d'impresa al centro della società e le persone al centro dell'impresa. Noi pensiamo che le piccole imprese fino ad oggi, come dire, non sapevano forse spiegare quali erano gli elementi di economia morale e di responsabilità sociale che sono già insiti nelle imprese. Il rapporto con le proprie persone, con la comunità esterna e una visione complessiva di un ruolo diverso. A me è capitato molto di girare il paese, di entrare in molte delle nostre imprese associate. Guardi, la differenza che io mi ritrovo e che ci si ritrova è che c'è stata una evoluzione nella consapevolezza degli imprenditori italiani e dei piccoli imprenditori italiani. E cioè, fino a qualche anno fa i nostri associati, quando entravano nelle proprie imprese, pensavano: come sarà la mia impresa tra 2 o 3 anni. Oggi invece pensano e si chiedono: come sarà il mio paese tra 2 o 3 anni, consapevole che quella impresa è una comunità e che quindi deve assumere un ruolo di corresponsabilità sociale all'interno con tutti i suoi attori, e diventa un progetto di vita. Questo è un passo significativo di un modo, come dire, di concepire l'impresa moderna in un paese come il nostro, e che fa onore, come dire, a chi fa impresa e a tutta la comunità impresa, quindi a tutti i collaboratori. È un bel discorso che condividiamo moltissimo, veramente anche, credo, innovativo da questo punto di vista. E per continuare, ha citato il Presidente della Commissione Cultura, la Commissione CSR, che è nell'ambito della Commissione Cultura di Confindustria, che è proprio presieduta da Pietro Guindani e che ha lavorato a indicatori di sostenibilità per le PMI. La Commissione Cultura del gruppo di lavoro sulla CSR, coordinato da Pietro Guindani, ha avviato con la LUISS di Roma una riflessione per chiarire concretamente che cosa significhi fare bene il proprio mestiere. L'ambizione è rendere disponibile a tutte le imprese di buona volontà un vademecum, gli anglofili direbbero una selezione di key performance indicators, utile a ogni azienda per effettuare un'autovalutazione del proprio livello di adesione ai principi della responsabilità sociale e per predisporre una rendicontazione chiara e trasparente che valorizzi l'impegno profuso in quella direzione. Presidente Guindani, questo è un po' la sintesi del lavoro che state facendo, nell'ambito del quale, se può ancora il Presidente Boccia rimanere qualche minuto con noi, commentiamo insieme, vengono citate le 5 tavole della rendicontazione, che sono un po', come dire, il brief, ecco, alla piccola e media impresa. Cosa sono le 5 tavole della rendicontazione? Sono 5 aree di attenzione che le descrivo brevemente. Innanzitutto l'area dei risultati economici, che devono essere sostenibili nel tempo, e questi sono indicatori che si riferiscono alla reportistica ormai consolidata e tradizionale di bilancio. Le aree invece più innovative sono le seguenti 4. Innanzitutto l'area che riguarda il capitale umano, ovvero la capacità dell'impresa di sviluppare risorse umane, dare reali opportunità di crescita mediante investimenti nelle competenze professionali, ma anche in quelle relazionali, con focus naturalmente sui talenti, secondo criteri di merito e di pari opportunità. Poi si viene all'area dei clienti, ovvero a quel livello di qualità e attenzione che ogni impresa deve mettere nei propri prodotti, nella comunicazione commerciale, nell'assistenza pre e post vendita, Peraltro questo è un elemento strategico per il successo commerciale di ogni azienda. Si viene poi all'area ambiente, che valuta le azioni a tutela dell'ambiente, di promozione del risparmio delle risorse energetiche e dell'ecocompatibilità, ovvero l'utilizzo di risorse che abbiano un basso impatto ambientale. E infine l'area che riguarda i rapporti con la comunità e il territorio dove l'impresa opera, che è mirata a valutare le relazioni esistenti tra l'impresa e la realtà locale, la comunità, la pubblica amministrazione, le istituzioni, vedendo l'impresa quindi come un elemento di promozione sociale sul territorio. Perfetto, Presidente. Vincenzo Boccia, la sensazione che ho, insomma, da persona che ha frequentato questo ambiente ormai da qualche anno, è che si sia un po' accorciato il divario fra la grande e la piccola, non solo perché Pietro Guindani è presidente di una grande Vodafone, ma mi sembra che ci sia, come dire, la stessa base su cui muoversi. Beh, direi che è uno degli elementi di positività della grande famiglia Confindustria. Abbiamo, diciamo, delle punte avanzate che sono i nostri grandi gruppi che hanno affrontato prima di noi e con elementi di certificazione i rating relativi alla responsabilità sociale. Grazie a loro stiamo portando in basso su imprese di dimensioni più basse con costi più sostenibili dei meccanismi di autovalutazione che rendono consapevole la piccola impresa, diciamo, di questo percorso e le aiutino in una, come dire, direzione in cui si crea una fase di costruzione reciproca da grande e piccola, perché la logica che ci sta, come dire, che si sta delineando è una logica appunto che tende a costruire imprese forti. Se posso fare una battuta, devo dire che in Confindustria non ho conosciuto, come dire, piccoli imprenditori, ma tanti grandi imprenditori di piccole e grandi aziende, che è una dimensione diversa di cui stiamo, come dire, cercando di capitalizzarne tutti gli effetti. Anche questo non è male. Grazie Presidente di essere stato con noi. Alla prossima. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. A bordo abbiamo avuto il Ferribotti, presidente di piccole e medie imprese di Confindustria, Vincenzo Boccia. C'è ancora con noi e rimarrà fino alla fine della trasmissione Pietro Guindani, che è il coordinatore del gruppo di lavoro CSR della Commissione Cultura di Confindustria. Abbiamo parlato del ruolo della finanza. Boccia ci ha parlato delle trattative in corso fra la piccola e media impresa e ABI per, come dire, fluidificare la manovra finanziaria. Abbiamo parlato anche del ruolo fondamentale della CSR che a questo punto si candida ad attività primaria anche per le piccole e medie imprese, con le cinque tavole della rendicontazione di cui ci ha parlato il Pietro Guindani. Adesso tocchiamo un altro elemento, forse il terzo tutto sommato, che rende poi il ruolo delle piccole e medie imprese avanzato, quello delle tecnologie, la capacità e anche l'accessibilità delle piccole e medie imprese al mondo tecnologico. Con il termine cloud computing si intende un insieme di tecnologie informatiche che permettono l'utilizzo di risorse hardware o software distribuite in remoto. I sistemi di cloud computer vengono criticati principalmente per gli aspetti legati alla sicurezza e alla continuità del servizio. Utilizzare un servizio di cloud computing per memorizzare dati personali espone l'utente a potenziali problemi di violazione della privacy. I dati risultano in possesso dell'azienda, che quindi, se avesse un comportamento malevolo, potrebbe accedere ai dati degli utenti al fine di eseguire indagini di mercato o di profilazione dell'utente. Il secondo problema è legato alla continuità del servizio. Un eventuale malfunzionamento colpirebbe un numero molto elevato di persone contemporaneamente, dato che questi sono servizi condivisi. Ecco, abbiamo spiegato in pochi secondi cloud computing e poi abbiamo voluto sottolineare quelli che sono alcuni aspetti che vengono considerati critici e che adesso sono osservazioni che giriamo subito a Pietro Scott Iovane, che è amministratore delegato di Microsoft Italia e che sono sicuro renderà meno problematiche di quanto non sembrino queste criticità. È così, Presidente, amministratore? Dunque, buongiorno, buongiorno. Grazie intanto per questo invito in questa importante trasmissione su un tema che guarda un po' al presente ma sicuramente anche al futuro. Il cloud, o mettere insieme la capacità di tutti, che tutti i server e i computer presenti nel mondo possono trasformare in termini di capacità dell'applicazione di fare di più, è un po' un fenomeno che si sta osservando ma che abbraccerà il modo in cui le piccole e medie aziende, le grandi aziende, la pubblica amministrazione potranno in qualche maniera fare, ma che i consumatori oggi fanno. Il cloud è sostanzialmente permettere alle applicazioni che oggi girano sui computer, sui server, sui telefonini di poter girare anche in una rete di server ad altissima performance, che grandi operatori, la Microsoft stessa lo sta facendo, ma anche i nostri competitor stanno sviluppando questi grandi data center, mettono insieme per far sì che queste applicazioni girino ancora su questi PC, server e telefonini, ma in maniera molto più efficace, molto più potente. E vediamo peraltro che questo tipo di spostamento tecnologico verso questi grandi data center viene osservato con estrema attenzione, in particolare da quelle aziende che da un lato vogliono portare la tecnologia in azienda in tempi brevi, veloci, e secondo vogliono poterlo fare a costi decrescenti. Pensando in particolare alle piccole e medie aziende italiane, questo modo di trasferire la capacità computazionale nella cloud, nella nuvola, permetterebbe loro di accendere servizi come quelli di CRM, cioè di gestione di relazione fra l'azienda e i clienti esistenti e potenziali, in maniera molto più semplice, perché si potrebbe avere un servizio di CRM direttamente a disposizione di questa piccola media azienda semplicemente acquistando il servizio da un data center come questo, oppure mettere a disposizione la posta elettronica in maniera molto semplice dei dipendenti della piccola media azienda, senza però dover acquistare un server e tutto ciò che è oggi previsto e richiesto. Presidente Guindani, indubbiamente il cloud computing si propone come una chance importante, perché, voglio dire, abbatte in maniera drastica gli investimenti in tecnologie e consente a chiunque, tutto sommato, di poter accedere anche a una capacità di elaborazione o di comunicazione molto alta. Sì, effettivamente concordo con quanto ha detto Scott Iovine. Il cloud computing consente a imprese, a prescindere dalla loro dimensione, di accedere ad applicativi, quindi a piattaforme informatiche anche molto complesse, utilizzandole soltanto per il tempo in cui è effettivamente necessario. Questo riduce i costi, soprattutto quelli iniziali, di accesso, e rende i costi da fissi a variabili. E questo è reso possibile dal fatto che oggi sempre di più disponiamo di reti di trasmissione dati ad altissima velocità, quello che si chiama la banda larga, e questo permette di accedere anche da remoto, come si suol dire, oppure anche in mobilità, ai server che possono essere molto lontani, sui quali girano, ovvero sono depositati, gli applicativi. Però la trasmissione dati ad alta velocità permette di collegarsi con prestazioni molto buone, non possibili fino a ieri. Mi consenta, amministratore delegato Iovine, il CRM che lei ha citato, che voglio dire non è una questione di poco momento. Il CRM vuol dire sostanzialmente, nell'ambito degli argomenti di cui trattiamo sempre a Ferribot, responsabilità sociale dell'impresa, vuol dire che un'azienda anche piccolissima può dare ai propri clienti un ritorno, appunto CRM, un controllo, un ritorno, una risposta immediata, a prescindere dalle capacità che ha, diciamo, dal punto di vista quantitativo. Quindi questa è un'altra delle chiavi che potrebbe essere significativa nell'ambito dei discorsi che facevamo con Guindani sulla CSR e le piccole e medie imprese. Mi permetta di aggiungere che in particolare per l'Italia e per quanto noto a tutti, cioè che l'80% del PIL, se non di più, viene generato da un numero incredibile di piccole e medie aziende, vuol dire offrire appunto a queste aziende un accesso a una tecnologia che è spesso solo a disposizione delle grandi aziende, e quindi quella professionalità che spesso l'informatica ha portato nelle grandi organizzazioni diventa di colpo disponibile a costo bassissimo e variabile, come ricordava giusto appunto il dottor Guindani, appunto per una piccola e media azienda, la quale tra l'altro è piccola e media per noi in Italia, ma in realtà si sfida e si confronta nel mercato internazionale però con organizzazioni dove l'information technology in quei paesi è un tema trattato da molto più tempo. Per darle un'indicazione, le piccole e medie medie aziende italiane investono fino ad oggi solo il 50% di per addetto in termini di information technology rispetto a quanto facciano invece le piccole e medie aziende comparabili degli altri paesi europei, e chiaramente il cloud computing è uno di quegli elementi che invece permetterà a questo gap, a questa differenza, di ridursi in tempi brevi. Io scusi se le faccio questa domanda, ma visto che siamo una trasmissione che si rivolge anche alle imprese oltre che a generici ascoltatori radiofonici, ma cosa vuol dire riusciamo a dare un'idea di quanto possa essere quale possa essere la differenza fra un impianto in termini di costo, voglio dire, autonomo e la gestione in remoto con voi, per esempio? Provo a dare una risposta molto molto pratica. Una delle tecnologie ormai a cui non si può rinunciare, o di cui non si può fare a meno, in particolare oggi nelle piccole e medie aziende dove questa tecnologia non era presente in maniera così estesa fino a poco tempo fa, è appunto la posta elettronica per i dipendenti. La posta elettronica diventa lo strumento di comunicazione tradizionale interna ed esterna verso clienti, fornitori e partner. Fino ad oggi è stato necessario, per quelle aziende che lo hanno eletto, dover acquistare dell'hardware, dover acquistare gli applicativi sia per il server che sul PC dei singoli dipendenti, acquistare del servizio di banda a supporto dell'azienda e poi avere dei costi di manutenzione. Possiamo parlare eventualmente di qualche migliaia di euro nelle condizioni di una piccola media azienda. Il costo invece analogo, trasferendo tutto questo investimento, a questo punto mancato, nella cloud, è di alcuni euro al mese per utente, ma la grande differenza, quindi parliamo di migliaia di euro come investimento in un costo variabile, come ricordava giustamente il dottor Guindani, che diventa un costo legato solo al costo per dipendente. Ma la cosa più interessante è che il cloud computing fa pagare solo ciò che in realtà viene usato, e quindi invece nel primo caso dell'investimento l'investimento è certo, nel secondo caso il costo del dipendente o per dipendente di posta elettronica avviene, si accende solo lì quando in effetti viene utilizzato, quindi si variabilizza e si posiziona solo su quella parte di utilizzo della tecnologia. Fantastico, anche se mi viene da pensare, così la saluto, mi viene da pensare ad un futuro in cui ci sarà un unico grande computer mondiale che farà il computing per tutto il mondo. Ma il tema della privacy e della continuità del servizio è una sfida importante. Il tema del cloud è una grande rivoluzione, qualunque rivoluzione, in particolare nel mondo dell'informatica, chiaramente giustamente solleva le perplessità, le preoccupazioni derivanti dal nuovo mondo verso il quale si sta andando. E il tema della privacy, cioè dove sono questi dati e se sono confusi o in realtà sono ritrattenuti in maniera apposita per garantire tutto quello che la legge prevede da un punto di vista di privacy, diventa particolarmente importante. Tanto è vero che si induce o si spinge le aziende a guardare esclusivamente quei fornitori di questi servizi che abbiano un taglio enterprise, cioè che sono aziende che hanno operato nel settore dell'informatica, ma in particolare hanno operato con le grandi aziende e sono consapevoli delle loro esigenze. Secondo, c'è il tema normativo. La nostra sfida è quella di portare il governo nei singoli paesi ad affrontare il tema della dove si trattengono queste informazioni e come possono essere rese fruibili, però mantenendo, aggiornando la normativa relativamente a questo tema specifico che l'informatica porta, cioè di portare i dati da un dato centrale a una base comune, ma al tempo stesso preservandone la fonte e l'accesso allo stesso. Grazie, lei è stato chiarissimo. Ci saluti Atlanta, dove l'abbiamo rintracciata. Arrivederci. Grazie a voi. Presidente Guindani, chiudiamo questa puntata sulle piccole e medie imprese, ma la sensazione da profano che ho, ma lei non è un profano su questi temi, è che il cloud computing, da qualsiasi parte provenga, quindi non necessariamente Microsoft, possa essere per le piccole e medie imprese italiane una chiave importantissima per sganciarsi dal cappio degli investimenti tecnologici. È una potenzialità in più, è una modalità diversa di effettuare gli investimenti, di farli in modo graduale e quindi proporzionati alle esigenze dell'impresa, ma di farli anche in un modo maggiormente diversificato, avendo accesso a piattaforme informatiche distanti dall'impresa stessa, si ha una scelta più ampia e la scelta dunque può abbracciare le tipiche soluzioni che riguardano la logistica piuttosto che la produzione, ma possono anche abbracciare applicativi che servono all'innovazione e alla presa di decisioni di alta rilevanza competitiva. Quindi in questo modo l'impresa svolge lo stesso lavoro di ieri, ma con delle potenzialità maggiori e dei costi più bassi. Grazie Presidente, grazie di essere stato con noi per la puntata. Ferribotto finisce qui. Arrivederci Presidente. Arrivederci e grazie di essere stato con voi oggi. Buona giornata. Grazie ad Anita Panizzi in redazione e a Paolo Colleoni in regia. Questa puntata, come le altre, è su www.radio24.it. A risentirci.